vorrei trovare una giornata con il sole, la risata di un ragazzo, il sorriso di un bambino. Vorrei viaggiare in una favola da sogno, nel mistero l'avventura, emozioni nuove ogni giorno. Un parco è tutto questo, è un'oasi di magia, tutta per noi. Noi siamo contagiati dalla parzmania, rimedio per la noia che ci fa stare bene. Noi siamo conquistati dalla parzmania, per vivere la gioia di stare tutti insieme. Vorrei fuggire dalla quotidianità, verso un mondo colorato che mi porti in paradiso. Vorrei l'incanto che mi dia serenità, in un tempo senza fine che purtroppo prima o poi svanirà. Un parco è tutto questo, è l'isola che c'è, tutta per noi. Noi siamo contagiati dalla parzmania, rimedio per la noia che ci fa stare bene. Noi siamo conquistati dalla parzmania, per vivere la gioia di stare tutti insieme. È divertente tornare, volendolo fare, bambini, perché può batterci forte il cuore, è una sensazione di felicità. Noi siamo contagiati dalla parzmania, noi siamo contagiati dalla parzmania, rimedio per la noia che ci fa stare bene. Noi siamo conquistati dalla parzmania, conquistare per vivere la noia di stare triste nella via. E divertimento sia con la tua, la mia, la nostra parzmania. Parzmania.